compro in edicola la mia copia di Repubblica giovedì scorso e aprendo, sparato in prima pagina 5 colonne su 6, che noi non siamo servi degli USA. Lo ha detto sempre Berlusconi in persona. Gran parte degli altri giornali vi esposti, noto, dà lo stesso annuncio con pari evidenza. Strano, penso. Che non siamo servi degli americani non dovrebbe essere tutto sommato una notizia così eclatante. Trattandosi almeno in teoria di un'informazione del tutto ovvia, secondo la nota regola giornalistica del cane e dell'uomo, non avrebbe diritto a spazio maggiore di quello di un trafiletto in una pagina interna. Anche la circostanza che l'abbia detta Berlusconi non sembra poi così emozionante. Si può pensare, come pensano probabilmente a Repubblica, che l'essere prono ai volere di Bush per Inde a cadaver sia non che un dato di fatto la massima aspirazione dell'uomo di Arcore, ma è chiaro che il poveraccio non potrebbe ammetterlo pubblicamente. Certe consapevolezze, non fosse altro che per motivi di protocollo, si conservano gelosamente nel proprio cuore. Per cui l'unica maniera di interpretare un titolo così plateale è quella di leggervi qualcosa di tipo di guardate che faccia di bronzo al nostro Silvio. E il fatto che esso appaia senza commenti, oltre che sui quotidiani, diciamo così, d'opposizione, anche su quelli più ferocemente ligi al governo, l'unico che se ne esonera di fatto è il Corriere, che tra governo e opposizione non è ancora riuscito a decidersi, questo fatto la dice lunga sul modo di lavorare della stampa italiana. La quale stampa italiana d'altronde lavora come può. Sugli stessi giornali di giovedì, a cercarla, si trova anche la notizia di come un giornalista inviato in Siria per aver chiesto pubblicamente alle nostre autorità militari di laggiù la documentazione sui noti fatti di sangue che ivi hanno coinvolto i nostri e gli altrui ragazzi, sia stato indagato per procacciamento di notizie riservate, che è poco meno di spionaggio, e invitato a nominarsi un avvocato di gran carriera. L'esercito ha negato che si tratti di un episodio di censura, ma giudicate un po' voi. Come potete giudicare anche l'annuncio, diffuso lo stesso giovedì 29, che la manifestazione del 1° maggio, ieri, sarebbe stata trasmessa in differita per impedire che da quel palco si levassero voci sgradite. Sono due notizie riportate così, come date di fatto, senza una parola di commento tranne quelle virgolettate degli interessati e delle istituzioni preposte. Del giornalista di Nassiria, in effetti, si occupa un po' diffusamente soltanto la sua testata. Gli altri si limitano a una notiziola di livello omeopatico. Se pensiamo a tutto il casino che avrebbero piantato in merito gli esponenti di una stampa veramente libera, non so, quella degli Stati Uniti d'America, per dirne una, che non si è mai fatta pregare per dire quello che va detto del suo governo, pensate alle recenti denunce della tortura in Iraq, e che non ha mai accettato alcun tentativo di imbavagliarla, beh, forse potremmo concludere che essere un po' più servi in certi campi non potrebbe farci che del bene.